buongiorno, 136esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, nella sua versione extra small del giovedì mattina. Sono al telefono con Giacomo Bottinelli, responsabile della sede territoriale provinciale LAV Grosseto, e a lui chiedo di commentare le recenti affermazioni fatte da Paolo Madrucci, responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ASL 9 di Grosseto, il quale ha sostenuto che, visto il fallimento della legge 281, si potrebbero risparmiare molte risorse evitando di mantenere a vita i cani dentro le gabbie, nei canili, attuando una politica di soppressioni dei randagi, quella che loro chiamano eutanasia. Beh, intanto il dottor Madrucci è il primo responsabile se la legge 281 ha fallito in provincia di Grosseto, perché è colui che dovrebbe controllare invece la sua applicazione in maniera rigorosa. Ma io non credo che la legge 281 né le leggi di applicazione abbiano fallito, non sono le leggi a fallire, bensì coloro che le devono applicare, come nel caso del dottor Madrucci o dei tanti sindaci che non rispettano le normative. Se le normative fossero state rispettate, chiaramente oggi non avremmo i problemi randagismo che in alcuni territori riscontriamo. La soluzione non è ovviamente l'eutanasia, che è una pura barbarie, una maniera semplice di risolvere il problema vero o presunto con uno sterminio. La vera soluzione è mettersi tutti insieme a collaborare per portare avanti quelle azioni che siano di prevenzione e non di soluzione radicale a posteriori. Qui si sta parlando ovviamente di prevenzione delle nascite, aumento della cultura del rispetto degli animali, ma soprattutto si sta parlando di controllare due settori fondamentali, che sono la caccia e l'allevamento ovicaprino, che sono le due fonti del randagismo, almeno per quanto riguarda la Maremma toscana. Chiaro che se i cani di cacciatori e allevatori fossero sotto controllo, adesso non avremmo una situazione come è quella attuale. L'argomento che viene utilizzato con più efficacia dai non animalisti è quello dei costi del mantenimento dei cani. Chiaramente qui si tratta di una questione di scelta etica. Se io devo tagliare tra le auto blu e i cani nei canili, sinceramente preferisco tagliare le auto blu. Quindi ci sarebbe una lunghissima lista di spese da tagliare prima di andare a pensare di uccidere degli animali che non hanno altra colpa se non quella di essere stati fatti nascere in maniera avventata e poi magari abbandonati, spesso, come dicevo, da cacciatori e allevatori. Sicuramente la nostra legge 281 appunto è tra le più avanzate del mondo in questo senso, anche per la sua eticità. Ciò non significa che la legge non abbia margini di miglioramento. Noi stessi come LAV abbiamo spesso riflettuto su questo e anzi auspichiamo che la legge venga riformata, ma tra riformare una legge e muoversi nel senso della soppressione, ce ne passa molta di acqua sotto i ponti. Non so se sia vero che i paesi che applicano l'eutanasia poi siano quei paesi che hanno le migliori performance nel controllo del randagismo, perché il vero controllo si fa alla fonte e non a posteriori, quindi il vero controllo si fa chiudendo il rubinetto con tutte quelle azioni di prevenzione che abbiamo detto, tra le quali la sterilizzazione continua a essere l'azione principale e più efficace, certamente non l'unica, ma unita ad altre azioni preventive. Secondo te la reazione alle parole del veterinario Paolo Madrucci sono state all'altezza della situazione oppure le sue parole sono cadute un po' nel vuoto? Nel vuoto assolutamente no. Tre senatrici del PD, la senatrice Cirinnà, la senatrice Amati e la senatrice Granaiola, hanno già annunciato una interrogazione parlamentare. In regione si è mossa SEL con il consigliere Romanelli e poi ci sono state un'altra serie di voci, sia politiche che non, che hanno difeso i cani a scapito di chi invece voleva semplicemente abbatterli. Quindi io credo che in questo momento, se qualcuno cerca di toccare questo caposaldo fondamentale della legge 281, che è il rifiuto dell'eutanasia, che poi eutanasia non è ma è una vera soppressione, rischia grosso. Quindi io penso che in questo momento il dottor Madrucci non possa dormire sonni tranquilli e che chiunque altro osi fare affermazioni di questo genere debba guardarsi poi bene le spalle, perché abbiamo visto perfettamente che cosa